Splendi soletto per l'ermo sentier, a noi t'avvicina, a noi t'avvicina. Che buia la china, che buia la china, che buia la china, foletto, foletto, a noi t'avvicina. Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina. Che splendi soletto per l'ermo sentier, a noi t'avvicina. Che buia la china, che buia la china, che buia la china, che buia la china.